signor Algerino, e il prodotto? Tengo il miglior prodotto del mondo, l'Algerino. E se poi ci lo fanno la fa, qua? Te chiedo, ma lo farò all'inverso di Agon. Qua, dove sta? Dammi un momento. Va, vas-y, bomba. Internacional.